cioè come iena fa il giorno morto. Benvenuti a una nuova puntata di 69esimo grado. Io sono Angelo Luoppo e questa sera faremo luce su un altro mistero rimasto irrisolto che nessuno mai ha avuto il coraggio di chiarire e di fare luce. Perché la paura fa 90 e il cuore canta. Inge che rima, compa, sciapo mandare a Fabio Pippa che ci fa una canzone. La triste vicenda si svolge a sto cacchio! Ah. Paese alle pendici del Monte Cappella! È il mezzogiorno del 30 febbraio 1985! E qui siamo arrivati al primo mistero! È possibile che il 30 febbraio sia diventato ce n'è uno e tutti gli altri sono 31? Ritorniamo alla nostra storia. Rocco lo ficca, idraulico, si alza e fa colazione. E qui il secondo mistero. Wow, wow. Miau. Perché fa colazione a mezzogiorno? E perché non va a lavorare quel giorno? Sciamba, forse è domenica? Agli inquirenti non basta questa risposta. Miau. Questa è una brutta storia. Una storia di giorni che non esistono. Squid! Trubbe! Traffico d'armi! Ha visto? Wow. Pirati della strada autovelox! Turista, turista! Oh, comprati la locale! Ma torniamo a sto cacchio! In paese abita il migliore amico di Lofica, l'elettricista Mimmo Lappoggia. Alcuni testimoni affermano di aver visto lo stesso giorno il Lofica e Lappoggia passeggiare per le vie di sto cacchio! Entrare nel negozio di intimo per donna, il paradiso del guardone, dove comprano tre paia di perizoma. Attenzione, attenzione a questo particolare, perché lo ficca e lo appoggia, due noti vitelloni che animano le notti di sto cacchio, comprano dei perizoma della loro taglia. Wow. E perché soprattutto ne comprano tre? Se sono solo in due! Ha visto! La risposta arriva pochi minuti dopo, quando i due scendono dal negozio e incontrano lo showman Tenaglia! Sempre a sto cacchio per girare la puntata del suo programma dedicato ai citroni di sto cacchio! I due consegnano la convenzione a Tenaglia! Comba, scingi! È una brutta storia questa, fatta di notti brave, orge, imbracchiappe, sparatoie e coltivazione di cetrioli. È davvero una brutta storia. Alle 17.30 i tre si dividono, Tenaglia sale sul suo SUV rosa pallido, tranne Rocco lo ficca che si mette dietro l'autovettura di simpatia Tenaglia. Da quel momento si perdono le tracce dello ficca, ma rechiamoci a casa del Tenaglia per sapere la verità sui fatti. Sì, chi è? Ah, le telecamere di pomeriggio 5, un saluto a Barbara. Tenaglia! Nye, nye! Nye! Ma chi cazzo conte? Siamo qui per sapere che fine ha fatto il suo amico lo ficca, scomparso nel 1985 con lei nella sua auto rosa pallido. Che fine ha fatto il lo ficca? Che fine ha fatto il lo ficca? Vede, il lo ficca vive con me e mia moglie ormai da 25 anni e ne beneficiamo entrambi. Un attimo che lo chiamiamo. Lofi! Lofi! Ah! Amore! E un attimo che finisci sdena muglietta. E a chi presta chi c'è? Chi è? Chi è chi? Su vai per la tosse. Puzzavo da tutti i parenti da me. E dimmi l'anno. Ciao ciao a tutti. Qui qualcosa non guarda. Ah, addio vita infame. Perché l'ammazza? Chi ci incredo in questa storia? Sinceramente perché non per non scrivere lo stesso finale e puh, Tenaglia mi sta via supri di coglione. Bene amici, anche questa sera abbiamo svelato un ennesimo mistero il corpo senza vista di vita di Tenaglia. Arrivederci, anche senza gola, da ruoco. Ah.